Mi chiamo Barney Gumble, ho 40 anni, sono single e bevo. In Otello c'è un verso su un beone. Un uomo ragionevole, col passar del tempo uno sciocco, ora una bestia. Questo dice praticamente tutto. Mi chiamo Barney e sono un alcolizzato. Questa è una riunione delle giovani esploratrici. Davvero? O forse non volete ammettere di avere un problema? Non piangete per me, sono già morto.